passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Anche se un tot gente ancora non ci crede, ancora non ci crede che io e la mia signorina stiamo bene insieme, bene insieme. Nella mia mano c'è un fiore, quando voglio un bacio me ne dà di più. E del resto io, da quando mi sono separato, non avrei mai voluto dirlo per non dare un'esposizione mediatica, ma ho avuto uno stabile rapporto di affetto con una persona che ovviamente era assai spesso con me, anche in quelle serate che certo non avrebbe consentito che accadessero a cena o nei dopo cena quegli assurdi fatti che certi giornali hanno ipotizzato. Beh, la prima domanda, caro Parenzo, è molto diretta. Ci credi o non ci credi a questa storia? Devo essere sincero? Beh, certo. È più facile che Parenzo diventi un astronauta che non esista la fidanzata di Berlusconi, la fidanzata ufficiale, diciamo. Più facile che io faccia l'astronauta e quindi faccio la fine del cane Laika, sai, quello che fu lanciato nello spazio. Beh, io invece sono molto più tranchant. Ma non è che dobbiamo parlare di questo. Beh, è questa la notizia del giorno. Non vogliamo parlare tutta la sera di Berlusconi, le donne. Io poi, sai, sono poco interessato a questo argomento, no? Cioè, nulla, non vuoi parlare di questa storia? No, parliamo, scusa, facciamo una puntata sulla riforma dell'università, tutta su questo. Ah, no? Dici che è meglio, dici che è meglio. Appassioniamo gli ascoltatori in questo modo. Poi, se a te non interessa sapere che no, nel materiale diffuso alla Camera dei Deputati, che sta circolando, e Rubbia avrebbe detto: ho chiesto 5 milioni di euro a Berlusconi, sì, che i PM scrivono giovani prostitute case in premio, che nelle intercettazioni alcune di queste ragazze dicono allucinante, o sei pronta a tutto te ne vai, altre dicono un puttanaio, siamo entrate sempre senza controlli. A te tutto questo non interessa, ma in realtà figuriamoci, assolutamente lo posso capire. Il PDL parla per esempio di blitz militare attraverso, ecco, Cicchitto. Un blitz militare, più che un blitz giudiziario, un blitz militare. Ma la questione che interessa di più è certamente quella della fidanzata di Berlusconi. Secondo me è una panzana, lo dico molto chiaramente, una panzana inaudita, che fa parte di una strategia difensiva decisa evidentemente nella giornata di ieri e poi, come dire, resa pubblica attraverso quel messaggio dagli avvocati del Premier. Però ti faccio sentire Carlo Rossella. Ecco. Il quale dice: Berlusconi cerca l'amore per la vita. Io ritengo che il Presidente sia stato in questo periodo di separazione da Veronica Lario alla ricerca di un amore vero, la ricerca di una donna che potesse essere una compagna anche per la sua vita. Ancora non ci crede. Rossella, anche lui ci crede e non ci crede in realtà, Ma ormai si può dire tutto. La Santanchè dice che l'amore è una dimensione privata e dunque non farà il nome di questa dama bianca. Ecco, io credo che, cioè, l'amore sia una visione intima delle persone, non è una dimensione pubblica. Io quello che ho detto è che mi auguro che il presidente Berlusconi su questa cosa mantenga una dimensione intima e non pubblica. Intervista oggi in qualche giornale, non ricordo, aggiunge: grazie a Dio non la dà in pasto ai media. Un giornalista chiede: ma non è quindi, come insinuano i suoi oppositori, una fidanzata inventata? Risposta della Santanchè: il presidente non inventa niente. Niente. Comunque, se si tratta, come dice, di un rapporto serio, domanda sempre la giornalista, ci sarà prima o poi qualcosa di ufficiale. Esattamente. E dunque Daniela Santanchè dice: sì, ha una fidanzata, ma non lo butterà mai in pasto ai media, e comunque Berlusconi non inventa niente. Per carità, poi qualsiasi strategia difensiva è legittima, anche quella di inventarsi una fidanzata, tanto si può trovare. Però bisogna distinguere. Ma poi io non ho capito, anche poi tra l'altro non ho capito bene, se uno ha una fidanzata non può fare le cose che vengono imputate a Berlusconi? Ma lascia perdere i parti. Cioè il fatto di aver detto di avere una fidanzata non è che impedisce poi di avere lo stesso comportamento, delle amichette in giro. Ma certo, avere delle altre amiche, lo dico perché non è che affermare di avere una fidanzata, come dice Berlusconi, non potrei aver fatto quelle cose. Chi l'ha detto? Chi lo sostiene? Magari uno. No, ma infatti voglio dire una cosa che non sta nel cielo né in terra. Il mondo è pieno di corna e di cornuti, ma non è questo il tema. Cioè non è che noi ci interroghiamo su questo perché ci interessano le questioni di se lui è fidanzato, se è fedele alla sua attuale compagna oppure no. Questo è un piano veramente di cui non ci frega nulla. La questione è politica di un'inchiesta giudiziaria che sta travolgendo il palazzo. Ma lo sta radendo al suolo Palazzo Grazioli, sta radendo al suolo la figura del Presidente del Consiglio. Cioè non parliamo delle amiche di Berlusconi, parliamo di un'inchiesta giudiziaria. Le intercettazioni di ragazze che dicono ma non avete neanche idea di quello che avviene lì dentro. Allora, parlano tra di loro, secondo la maggioranza si tratta di un'intrusione gravissima nella vita privata del Presidente del Consiglio, perché nei mesi scorsi sono state intercettate, pedinate, seguite, spiate tutte le persone. Qualcuno può spiegare a Cicchitto che quando c'è un'inchiesta in corso si chiama proprio inchiesta giudiziaria in cui si raccolgono delle prove? Sì, si può rispondere a questo, caro Parenzo, che le inchieste giudiziarie, certamente c'è un'inchiesta giudiziaria in corso, non è che nascono dal nulla, nascono anche da una volontà, secondo sempre Cicchitto, di colpire la persona, il Presidente del Consiglio e le persone che sono intorno a Berlusconi. Sì, ma se c'è una notizia di reato, non la mettere in maniera così ingenua. C'è una notizia di reato e i magistrati indagano. Non è così semplice la cosa. Sappiamo che nel nostro paese l'obbligatorietà dell'azione penale è soprattutto discrezionalità, ma non è questo il tema oggi. Il tema è che questa persona intanto ha detto che non andrà dai magistrati, e già questo mi pare clamoroso, perché invece lui dovrebbe difendersi, siccome strategia difensiva. Sentiamo però, caro Parenzo, cosa pensa un esponente di un partito che adesso è all'opposizione, che è Futura Libertà, l'onorevole Carmelo Briguglio. Buonasera. Buonasera. Come sta? Come sta, signor Briguglio? Ottimamente. Dove si trova? A Roma? No, non mi trovo a Roma, sono in aeroporto a Catania, che fra poco mi imbarco per Roma. Di fronte a quello che sta uscendo, immagino che lei sia collegato, anche se dall'aeroporto, con qualche mezzo tecnologico avanzato, come dire. Di fronte a quello che sta uscendo, cosa dovrebbe fare secondo lei Berlusconi? Dimettersi, per esempio? No, dovrebbe fare quello che qualunque cittadino è tenuto a fare. Cioè? Per il Presidente del Consiglio vale molto di più, perché ci rappresenta nel nostro paese e nel mondo. Andare dai magistrati, difendersi con le proprie tesi, con tutto ciò che gli consente il codice, e dare ampie spiegazioni rispetto ad accuse che sono, diciamo, pure infamanti. Senta Briguglio, andare dai magistrati e spiegare, ma questo atto, cioè presentarsi dai magistrati nei termini e nei modi in cui i magistrati vorranno, in cui ci si metterà d'accordo tra l'accusa e la difesa, e al di là poi delle storie che riguardano il legittimo impedimento, i ricorsi, le competenze, eccetera, eccetera, secondo lei si può governare difendendosi da accuse così infamanti? Ma secondo me, se si danno delle spiegazioni adeguate, certamente sì. Siamo in una fase di indagine. Però chiedono il rito immediato. Cioè, se inizia un processo, secondo lei Berlusconi deve restare Presidente del Consiglio o no? È compatibile con questa carica oppure no? Questa è la domanda. Allora, noi non conosciamo né le carte, né i contenuti, né diciamo i fatti. Probabilmente quando questi saranno noti, e credo che lo saranno presto, nei prossimi giorni, perché comunque nelle prossime ore stanno mandando questo, diciamo, dossier alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati, e quindi ci sarà lì una prima valutazione. Certo colpisce il fatto che i tecnici, diciamo i giuristi, gli avvocati lo sottolineano, il fatto che ci sia una richiesta di giudizio immediato. Normalmente questo accade quando la procura ritiene, ovviamente è una opinione, una tesi di parte, ma ritiene di avere delle prove abbastanza consistenti. Quindi diciamo siamo, direi, in questo caso in una condizione che non è perfettamente paragonabile con quello che è accaduto in precedenza. No, ma quello non c'è dubbio. Però Briguglio, no? La cosa che voglio capire da lei, l'inizio di un processo, mettiamo che ne so, tra un mese, due mesi, no, nei confronti di Berlusconi per un'accusa così grave come la prostituzione minorile, eccetera, eccetera, è compatibile col fatto che Berlusconi continui a fare il Presidente del Consiglio? Me lo dica chiaramente, non giriamo intorno. No, no, io non giro affatto intorno, deve essere lui diciamo a valutarlo, e credo anche la pubblica opinione. Ancora diciamo non si conoscono i fatti nei dettagli, certo che le accuse sono estremamente gravi, che se provate sarebbero assolutamente incompatibili con il ruolo di primo ministro. Sì, se provate. Dunque lei dice finché non si arriva a una sentenza di qualsiasi tipo, no, Berlusconi potrebbe continuare a fare presidente. No, assolutamente. Io dico fino a quando non si conoscono bene i dettagli delle accuse, non credo che possiamo. Ma non le basta, diciamo, non le basta quello che già sta uscendo come dettagli delle accuse, non sto dicendo di sentenze, naturalmente che non ci sono, ma come dettagli di accuse non le basta quello che già esce, feste, accuse di prostituzione, di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne, eccetera, eccetera. Con tutto quello che sappiamo è inutile che riassumo, lei lo sa. Guardi, benissimo. Le accuse sono gravissime. E tali da rendere incompatibile il ruolo di Berlusconi con quello di Presidente del Consiglio. Oh, ecco, però ci potrebbero essere teoricamente delle spiegazioni adeguate che potrebbero smontarle. Questo manca, e secondo me il fatto che Berlusconi non voglia andare dai magistrati, al di là di dire strategie difensive, vede, le strategie difensive per un cittadino qualsiasi sono ammissibili in linea di diritto anche per il Presidente del Consiglio, ma sul piano diciamo politico e dell'etica pubblica non è così. Cioè il Presidente del Consiglio ha il diritto ma anche il dovere di difendersi e di spiegare. Ecco, ma la spiegazione di ieri in quel messaggio dunque non è sufficiente secondo lei, è poca cosa. Per esempio, lei crede al fatto che Berlusconi sia fidanzato? Posso essere sincero? Deve essere sincero. Allora, io non so chi sia lo spin doctor di Berlusconi. A me non pare che sia stata una risposta efficace. Per certi versi mi è sembrato, almeno stando diciamo al videomessaggio, non mi pare che sia stato conseguito l'effetto sperato o l'effetto voluto. Ci vuole ben altro. Dunque, comunque, secondo lei è un'invenzione dei difensori questa roba qua? Questo non lo so. Se lei dice gli spin doctor, dirlo, è una vicenda, diciamo, come dire, questo aspetto proprio sentimentale e privato che dovrebbe avere un effetto diciamo a fini difensivi, non ha avuto certo, non ha conseguito l'obiettivo, e non voglio giudicarlo in ordine alla veridicità. Potrebbe essere vero. Vabbè, certo, insomma, ho capito. Certo. Senta, non ha convinto molte persone. Ecco, e lei è convinto? Non mi pare convinto nemmeno lei. Vabbè, no, mi pare evidente. Insomma, se non ha convinto molte persone, immagino che non abbia convinto lei. Insomma, adesso non le voglio mettere in bocca parole che non ha pronunciato Briguglio, però a me sembra una tattica difensiva, per carità, legittima. Lei non sembra così, velocemente? Prego? A lei non sembra una tattica difensiva, una roba del genere? Sì. No, nell'intenzione di Berlusconi e dei suoi difensori sarà pure una. Ma non si è mai avuta notizia? Sul piano, diciamo così, pubblico e sì, politico, non mi sembra che sia molto efficace. Anche perché io aggiungo, e adesso andiamo col traffico, poi torniamo con Briguglio, che non è che avere una fidanzata impedisce di fare quelle cose che avrebbe fatto Berlusconi. Anche se un tocco gente ancora non ci crede. Torniamo qui in diretta alla Zanzara su Radio 24, 18:48. Caro Parenzo, pochi istanti fa il ministro dell'istruzione Gelmini ha detto: non sapevo della fidanzata di Berlusconi. Qui è un rincorrersi di voci. Tra l'altro La Torre, esponente del Partito Democratico, dice a questo punto è auspicabile il voto, e in realtà c'è, insomma, sempre più forte il pericolo, oppure insomma, secondo alcuni non è affatto un pericolo, che si vada alle elezioni, che questa vicenda poi trascini il paese alle elezioni. Prima di ricollegarci con Briguglio, che era all'aeroporto di Catania, la linea naturalmente è caduta, andiamo a Giorgio Milano. Buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io sono arrivato adesso, dopo un po' di giorni, dagli Stati Uniti. È sì, possibile che la prima risposta, la prima notizia che ho letto sul giornale, che Berlusconi ha fatto, e lei alla sera riprenda, ma ci interessa? Giorgio, lei mi sembra che sia stato negli Stati Uniti, ma non sia ben connesso con l'Italia, insomma, per cui io... La invito soprattutto quando parla con me, degli altri non mi interessa, lei usa un altro tono. Io uso il tono che voglio, innanzitutto, altrimenti lei è libero di consono a uno che tiene una trasmissione. Io mi dispiace, non decide lei il tono che è consono a chi tiene la trasmissione. Caro Giorgio, io le ho detto, non c'entra niente l'educazione, perché io non sono stato ineducato con lei. Ho semplicemente detto che lei evidentemente non è a conoscenza di quello che accade in Italia, altrimenti non farebbe questa domanda, perché questa vicenda potrebbe travolgere il governo. Dunque non si tratta né di gossip né di notizie che non vale, di cui non vale la pena parlare, per cui cerchi di informarsi, si informa su quello che è accaduto in Italia negli ultimi due giorni, dopo ci richiama e ci dice: e allora io di Berlusconi, di questa vicenda di Rubi, penso questo e quest'altro, altrimenti si astenga dal dire stupidaggini. Vorrei dirle una cosa, secondo lei, sì, lei una volta ha avuto torto nella sua vita? Molte no? Volte, ogni giorno ho torto, sbaglio ogni giorno, come le persone, come tutte le persone normali, caro Giorgio. Invece di dire stupidaggini, che questa vicenda di Berlusconi e di Rubi non interessa a nessuno, si informi prima di torto. E allora che cosa? Allora cosa sta dicendo? Non ho capito quello che dice. Ho detto, scusi. Se la vicenda è presentata come la nuova fidanzata della... Ma l'ha detto Berlusconi della nuova fidanzata, Giorgio, si connetta, si informi, l'ha detto Berlusconi, probabilmente una strategia difensiva, di cosa sta parlando? Di cosa parla? Parenzo, rispondi tu, perché io non ce la faccio. No. È tornato dagli Stati Uniti, questo signore, che per carità è una bravissima persona, è tornato dagli Stati Uniti e mi viene a fare la lezione sull'argomento che devo fare questa sera, magari che è incredibile. Cioè... Possiamo accettare la motivazione di Giorgio solo se, come ho detto io all'inizio, in modo ironico è una provocazione, io l'ho detto in modo ironico. Benissimo. Che non mi interessa parlare di questo. Se parla sul serio, siamo nel campo dell'ambulanza. Se vuole la chiamo, Giorgio. Non mi sembra il caso di chiamare l'ambulanza, perché lei mi sembra una brava persona, ragionevole. Insomma, mi sta dicendo una cosa che, insomma, evidentemente denota il fatto. Tutto il mondo ne parla. Ringrazio, molto gentile. Grazie. Prego, prego, prego. Signor Briguglio, eccoci qua. Allora, prego. Che vuole fare? Senta, dove eravamo rimasti? Sì, alla fidanzata di Berlusconi. Lei dice che sostanzialmente non ci crede. Ma diciamo che possiamo chiudere qua, ci siamo capiti. Ci siamo capiti, per carità. No, ma che chiudiamo? Parenzo, che vuoi chiedere? Volevo capire solo questo. Qualora lei fosse nella commissione che dovrà dare l'autorizzazione a procedere nei confronti di Berlusconi, che cosa voterebbe, visto quello che ormai è uscito tutto sui giornali, sì, domani usciranno altri particolari, ma insomma, secondo lei c'è fumo persecutionis nei confronti del Presidente del Consiglio, o è giusto dare l'autorizzazione a procedere? Io non faccio parte della giunta, ci sono due colleghi di Futuro e Libertà, è una materia estremamente delicata e credo che a titolo personale, cioè, non sarebbe serio da parte mia, perché non ho visto le carte, ho letto insomma, giornali e agenzie. Aspettiamo, domani non è così lontano. Senta, alcuni esponenti della maggioranza in queste ore stanno già parlando di operazione sovversiva da parte dei magistrati. Mi dica qualcosa su questo. Operazione sovversiva, I magistrati per noi sono un baluardo della legalità e dello Stato democratico. Tutti? Ecco, indistintamente, tutti. Anche quelli della Procura di Milano che secondo Berlusconi lo perseguitano. Tutti, anche la Boccassini. Io credo che noi dobbiamo rispettare la magistratura. Pensare ogni volta di sollevare un complotto, che ci sia un complotto, è un fatto estremamente sbagliato. Dunque, secondo lei la Boccassini non ha nessun pregiudizio nei confronti di Berlusconi? Quindi non c'è fumo persecuzioni, Saponi. No, secondo me va deciso in base, questa valutazione va presa in base alla documentazione. Aspettiamo, io credo che i colleghi tutti della giunta si comporteranno con grande senso. Senta, un'ultimissima cosa, Briguglio, ma secondo alcuni le elezioni sono più vicine, secondo lei? Secondo me no. Secondo lei no. Va bene, grazie. Grazie dall'aeroporto di Catania, dall'aeroporto di Catania, molto sintetico, l'onorevole Briguglio che sta per partire. Non mi fate arrabbiare questa sera. Si parla di Berlusconi e del Bunga Bunga. Cosa volete? Se non vi va, cambiate. Carmelo, da poi intervenite su quello che volete, sulla Fiat, sui vostri guai familiari, su cosa mangiate questa sera, sul colibrì, su qualsiasi cosa. Noi parliamo di questo, vi offriamo questo menù. Carmelo da Perugia, buonasera. Sì, buonasera. Anche lei pensa che la fidanzata di Berlusconi sia un argomento da non trattare? No, no, assolutamente, va trattato. No, allora lo dica all'ascoltatore di prima, da Milano, così almeno si riconnette dagli Stati Uniti, si informa un po', legge e poi vediamo. Carmelo, ci sentiamo allora, dopo. Semplicemente io volevo... Ci sentiamo dopo le 19, dopo il giornale radio, la richiamiamo noi. 800 24 00 24. Parenzo, preparati, stasera si battaglia. Bene, caro Parenzo, 19:19, 800 24 00 24, ci informano che sul sito dell'Espresso, per esempio, stanno uscendo naturalmente le intercettazioni presenti nelle 300 pagine di indagini che i magistrati hanno spedito alla giunta delle autorizzazioni della Camera. In una di queste intercettazioni ci sarebbe sempre al condizionale la pistola. Intercettazioni audio? No, per adesso no, fra poco usciranno anche quelle audio. Ci sarebbe la cosiddetta pistola fumante. Che meraviglia, coperta fumante, non pistola fumante. Ruby parlando col padre, che dice: Berlusconi ha detto al suo avvocato di pagarmi tutto quello che voglio, basta che io non dica che lui sapeva della mia età. Sì, detto questo, si tratta, com'è evidente, di conversazioni. Sì, no, ma si tratta di conversazioni tra Ruby e il padre. Conversazioni tra Ruby e il padre, non di conversazioni tra Ruby e Berlusconi, in cui Ruby ricatta tra virgolette Berlusconi, o cui comunque Berlusconi dice a lei direttamente, perché questo non sarebbe possibile, in quanto il telefono di Berlusconi o comunque la conversazione di un deputato non è... No, ma infatti non c'è dubbio, cioè comunque la si pensi e comunque vada a chiudersi l'indagine o l'inchiesta, il punto fondamentale per ora, al di là delle lenzuole, delle coperte, bunga bunga, far l'amore, non far l'amore, in quanti erano, rimane la ricattabilità. Cioè, politicamente oggi, se noi non vogliamo confrontarci con le carte che stanno uscendo e con la veridicità delle cose di queste persone che possono parlare liberamente al telefono e dire delle minchiate pazzesche, no, perché può essere anche questo. Vabbè, la ricattabilità è uno, diciamo, degli argomenti, no, certamente. In questo momento, non avendo le cioè leggendo solo carte, non sapendo se davvero ci sono gli scontri e quello che possiamo dire è che è un premier sotto ricattissimo, non sotto ricatto, sotto ricattissimo. Allora andiamo a sentire i titoli del TG3. In Parlamento gli atti del caso Ruby, un numero rilevante di giovani donne si sono prostituite con Berlusconi, soldi e case in cambio. Indiscrezioni sui documenti, pronte a tutte o via, entravano senza controllo, lo chiamavano tesorino Ruby, Silvio mi ha detto taci, gli ho chiesto 5 milioni. Alfano, non siamo noi a cercare lo scontro, brutti liberati, la legge è uguale per tutti, Cicchito, valuteremo se andare al voto. Rossi Bindi, situazione insostenibile, Berlusconi liberi il paese dall'imbarazzo, in diretta al TG3 il commento del leader dei centristi Casini. Tra rabbia e speranza la Tunisia mette fine all'epoca Ben Ali, al TG3 il giovane blogger che per primo ha smascherato le colpe del potere. A Firenze primo test d'italiano per gli immigrati che chiedono il permesso di soggiorno, anche mamme con bambini tra i banchi. L'ira della Lega contro il film su Valanzasca, Placido va dall'estero a lavorare, il regista replica, il loro Barbarossa non l'ha visto nessuno. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata, perché io devo mettere la testa a posto. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata, pure che mi faccia vivere nel modo giusto e non con... E del resto io, da quando mi sono separato, non avrei mai voluto dirlo per non dare un'esposizione mediatica, ma ho avuto uno stabile rapporto di affetto con una persona che ovviamente era assai spesso con me, anche in quelle serate che certo non avrebbe consentito che accadessero a cena o nei dopo cena quegli assurdi fatti che certi giornali hanno ipotizzato. Sempre in questo messaggio Berlusconi dice: a me piace stare con giovani e ne ho aiutate alcune. Sentite. Che ride. La mia vita di imprenditore mi ha insegnato quanto sia difficile affermarsi per una persona giovane, soprattutto agli inizi. Perciò quando posso io cerco di aiutare chi ha bisogno. Io, lo sapete, nel corso della mia vita ho dato lavoro a decine di migliaia di persone, ne ho aiutate a centinaia. Mai, mai in cambio di qualcosa se non della gratitudine, dell'amicizia, dell'affetto, che continuerò a farlo. Mai pagato per sesso. È assurdo soltanto pensare che io abbia pagato per avere rapporti con una donna. È una cosa che non mi è mai successa neanche una sola volta nella vita. Ed è una cosa che considererei degradante per la mia dignità. Un po' di disciplina che mi obbliga a svegliarmi presto la mattina, che mi faccia stare un'ora a esaminare una... Beh, c'è da dire anche della reazione di Fini ieri da Fazio, se non sbaglio, caro Parenzo. Fini vada dai giudici, discredito per l'Italia. Io capisco Berlusconi, la sua indignazione, ma ha una sola cosa da fare, anche per il discredito che queste notizie danno per l'Italia intera. Vada dai magistrati, dica la sua opinione, dimostri la sua estraneità, si difenda come ogni cittadino deve fare. Poi malaccio, con i casini che faccio, i guai con cui mi caccio, so che non è serio cambiare ogni sera, ma preferisco... Allora, Berlinguer, e sto parlando del direttore del TG3, versus la Russa sul rapporto stabile di Berlusconi, sentiamo. Ho notato peraltro che non avete dato nessuna importanza a una cosa che Berlusconi ha detto per la prima volta, che io sapevo che alcuni di noi sanno. Allora non è che non abbiamo dato, io già ho capito lei a che cosa si riferisce, al rapporto stabile. Perché non me la fa dire? Allora, al rapporto stabile. Non me la faccia dire. No, perché l'ho detto io in apertura di telegiornale, visto che lei me dice... la fa dire a me. Sì. Me la fa dire a me. Sì, sì, la dica, grazie. La dica. Grazie. Non avete dato quasi nessun rilievo a una circostanza che Berlusconi ha dichiarato oggi per la prima volta, che noi conosciamo e che lui è legato sentimentalmente da diverso tempo a una persona con la quale passa spessissimo le giornate. Va bene, 800. Decide anche le scalette, anche le scalette del telegiornale decidono i ministri. Boh. Vabbè, adesso non esagerare, No, però c'è invece una cosa gravissima politicamente cosa? Che ha detto Berlusconi, ma gravissima. Cosa? E cosa? Ti ringrazio per avermela fatta riascoltare. Cosa? Gravissima. Qual è ma la cosa politicamente gravissima. Dai, dai, tu, non ci tenere. Qual è? Non ci tenere così. Quella che dice che lui aiuta tante ragazze e tanti giovani che si vogliono affermare, li aiuta, no? Facendoli così con i regali, facendoli li aiuta, è buono. Cioè è la conferma del mecenatismo. Cioè noi nel 2011... Ma non è una novità, Non no, è una ma è grave, ma è grave che l'abbia detto in questo contesto, perché vuol dire che anziché fare delle leggi per dare opportunità, per creare ascensore sociale, per liberare il paese dagli ordini professionali, lui aiuta chi gli sta intorno. Stai una esagerando. Una visione caritatevole della politica, caritatevole, vergogna, vergogna, caritatevole. Sì, sì, sì, sì. Sei tornato quello della serata del Bunga Bunga. Ma dov'è la rivoluzione liberale? Sei sei quello della serata del Bunga Bunga. No, ma che Bunga Bunga, tesoro. Sei quello della serata del Bunga Bunga. No, mon amour, tanto per prepararci alla Francia. No, mon amour. Dov'è la rivoluzione liberale? Dov'è la rivoluzione liberale? Quello di questo si paese? Sa che si sa che non è così, ma hai ma ragione. Come non è così? Ma su questo ma un uomo che dice che aiuta i giovani dandogli dei soldi è mecenatismo. Ma non ha detto che aiuta i giovani, ha detto ho aiutato sì, un sacco di gente. Ascoltare. Sì, ho aiutato un sacco aiutare. Di gente, sì, ma persone che aiutare. Ma hai ragione tu, ma figurati, ma su questo che non debba aiutare, che non debba elargire denaro così, sono il primo a dirlo. Lui deve fare delle riforme, non aiutare, ci ho aiutato un sacco di ragazze. Ma sì, ma chi se ne frega poi se hai aiutato un sacco ma di ragazze? Ma gravissima, ma gravissima no, è una cosa che uno dovrebbe rispondere, vabbè, hai aiutato un sacco di persone, chi se ne frega, non è mica una prova di scolpa. Chi se ne frega, ma invece è l'essenza del berlusconismo, hai capito? Questo è il problema. Va bene, Emanuele da Sassari, buonasera. Era complimenti. Dica. Niente, io volevo rimango sempre stupito di queste dichiarazioni che fa Berlusconi, ma cioè come cosa pensa, che noi siamo degli imbecilli o che cosa? Cioè qui in Sardegna ogni anno quando viene a passare lì a Villa Pelosa dove fa le feste. Sì. Cioè ci sono pure le foto, hanno fatto pure le foto, sono uscite su internet organizzando, sì. Non so, forse erano delle orge, non so cos'erano. Vabbè, Emanuele, che vuol dire? Mi spieghi bene il suo intervento. Niente, volevo dire che cioè per l'ennesima volta fa raccontare delle cose che non sono vere. Per esempio cosa? Cos'è che racconta che non è vero? Mi faccia un esempio. Racconta che è fidanzato. Ecco, lei vuole dire che non è vero che è fidanzato. Vabbè, d'accordo. Cioè io penso che una persona fidanzata non organizza le orge, a meno che questi rapporti moderni ci sia qualcosa di nuovo, ma non è una cosa normale. Vabbè, Emanuele, la ringrazio. Michele dalla provincia di Ancona, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io chiamo per una cosa specifica che adesso gli do subito. Ecco, mi dica. Ecco, prima le volevo ricordare a lei, volevo dire a quel signore lì che ha chiamato e è tornato dagli Stati Uniti dicendo che lei non lo fa parlare, no? Non fa parlare nessuno. Io lo inviterei a telefonare intorno alle ore 20 di tutte le sere sulla RAI. Se voleva parlare o se vuole parlare su quello. Vediamo un po'. Che lei dice che parlare. Lì non fanno parlare. Non fanno parlare per niente. Ma guardi che il signore che ha chiamato prima non ha detto che qui non lo si lascia parlare. Ha detto che ci stiamo occupando di cose, insomma, non particolarmente importanti. D'accordo, Michele, guardi, devo dare la linea alla borsa, torno subito dopo. 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Perché io devo mettere la testa a posto. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Pure che mi faccia vivere nel modo. Eccoci qui di nuovo con la Zanzara. 19:34 800 24 00 24. Carmelo da Perugia, buonasera. Sì. Carmelo, mi sente? Pronto. Dica. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Dunque io semplicemente volevo offrire una chiave di lettura alla vostra discussione, una chiave di lettura diversa del fatto di Rubio. In pratica sulla telefonata che fece Berlusconi alla questura di Milano, sì. Ecco. Allora? Ecco, no, semplicemente devo fare una piccola premessa. Belpietro in una trasmissione televisiva rivelò che durante una cena in cui c'era Mubarak e Berlusconi, sì. Berlusconi fece la battuta a Mubarak in cui disse: guarda, io ho conosciuto una tua parente bellissima. Allora? Questo per dire che Berlusconi era convinto di avere conosciuto una parente di Mubarak. Ecco. Fatta questa premessa, quando è arrivato a sapere che questa ragazza era in mano ai poliziotti, a mio parere è intervenuto semplicemente per evitare una crisi diplomatica, diciamo così, per evitare che questa ragazza potesse avere dei danni, perché si sa. Carmelo, mi scusi, guardi, le cose non sono andate proprio così, cioè non credo che Berlusconi credesse al fatto, anzi è stato lui, diciamo, a tra virgolette inventarsi questa storia, che abbia mai pensato che Rubi fosse per davvero la nipote di Mubarak. Abbia pazienza, cioè, non, mi sembra che lei abbia un po' sbagliato un po' analisi così, o comunque abbia messo insieme delle cose in maniera non proprio corretta. La ringrazio. Casini intanto dice: se la maggioranza vuole il voto subito, il terzo polo è pronto. Giovanni dalla provincia di Imperia, sei tornato, Parenzo? Sì. Come no? Giovanni, provincia di Imperia, buonasera. Pronto? Sì, dica. Sì, buonasera. Sì, effettivamente, anche l'ascoltatore di prima volevo dire, insomma, non è che Mubarak ci avrà qualche parente viene a fare la... Ragazzi, poi di che parliamo? Ma Mubarak è egiziano, quella è marocchina, cioè non di che sì, stiamo vabbè, parlando? Sì, marocchina, quello che sia. Comunque sia, niente, se Berlusconi si tiene in forma, così secondo me anche grazie a questi festini, queste cose che fa, anzi... Tra qualche giorno, se ne faccio uno anch'io, vi invito, se volete venire, vengo a prendere con l'ambulanza. E vi porto qui. Bene, qui bene, da me. Bene. Poi, allora, al di là di questo, Giovanni, abbiamo capito. Che effettivamente non è che possono far cadere il governo perché Berlusconi forse si intrattiene con delle donne, donnino o quant'altro. Che la cosa sia grave è un dato di fatto. Però sono successe cose ben più gravi, credo. Sì, Giovanni, non c'è dubbio. È anche vero, questo bisogna dirlo, che nel mondo spesso i leader politici sono caduti anche per questioni che riguardano le donne, per questioni che riguardano il sesso, le donne, i tradimenti, eccetera, eccetera. Cioè, è successo in moltissimi paesi, non è mai successo fino in Italia, perché questa dimensione non è mai stata decisiva per le sorti di un uomo politico. Beh, insomma, mi sembra che può essere questo il caso, invece. La situazione è questa, Giovanni. C'è poco da fare. Berlusconi può seriamente cadere per una vicenda di questo tipo. Ma sì, allora, ascoltate, voi siete bravi in generale in media a creare il caso. Il caso oramai l'hanno creato, bisogna tenerlo in piedi. Secondo me non può cadere per queste... Per queste faccende. Beh, Giovanni, secondo lei no, però insomma assolutamente è possibile che invece possa cadere. Adesso, al di là del fatto che io penso, per esempio, che sia in corso, e questo lo dico senza nessun problema, che sia in corso da anni una battaglia molto forte tra una parte della magistratura milanese e Silvio Berlusconi, su questo secondo me non c'è alcun dubbio. Dopodiché è anche vero che in questo caso Berlusconi se l'è un po' cercata. Sentite? Sì, la sento. Giovanni, ma questo è indubbia la cosa. Sicuramente ci saranno delle parti di magistratura che hanno delle ideologie politiche di tipo diverso, cercano di combattere la parte avversaria politica in qualche modo. Che non tutta la magistratura sia organizzata così non ci posso credere, perché sennò sarebbe molto più pericoloso quello piuttosto che Berlusconi che va con qualche donnina. Va bene, grazie Giovanni. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Allora, voglio farvi sentire, caro Parenzo, uno scontro al calor bianco, come si dice, tra Oscar Giannino e il nostro amico Luca Telese, il quale durante la trasmissione di Paragone venerdì scorso, l'ultima parola, si è fatto capopopolo, si è infiltrato lì tra gli operai ed ha arringato, oltre che la folla, pure i presenti nello studio dell'ultima parola. In realtà, con uno strano gioco, uno strano scambio di ruoli, giornalista, mezzo operaio, pasdaran degli operai, ma lo dico con grande affetto naturalmente, però un po' era così, e con delle parole non proprio tenere nei confronti di Giannino. Via! La produttività in Italia non è fatta per 10 minuti di pausa, lo sapete meglio di me. Lì la scommessa è Telese, fai parlare, non fare il demagogo per vendere copie. Su, Telese, dai, allora, fai buono. La cruda verità, se mi guardi. Tutta questa battaglia di Marchionne per la produttività, lo chiedo a Cota, è strana. Ma quando l'accordo, se andasse bene, ci sarebbe un anno di cassa integrazione, cioè ammazza gli operai per 5 minuti e un anno di cassa integrazione senza produrre nulla. Cioè Telese, tu vuoi che chiuda domani cosa, perché sono già in cassa integrazione per prenderti gli applausi. Perché la gente prende il lavoro. Complimenti Luca. Ma voli solo tu da me. Chiunque ti vede capisce che frequenti le catene di montaggio. Sbagli Luca, dai, su, neanche tu le frequenti. Sbagli molto Luca, no, neanche tu le frequenti. Menti per la gola e mi hai anche insultato in questo Luca, perché io per andare a un liceo classico a Torino ho dovuto mettermi in ginocchio, quindi queste sono storie personali sulle quali non hai alcun diritto di parlare. Non dire panzani. Alcun diritto. Luca, stupido, Luca, che non sei altro. Luca, sì. Allora scusate. Do ragione a Giannino su tutta la linea, al 100%, cosa c'entra l'abbigliamento di Giannino col fatto che non è vicino agli operai? Poi è vero, era una battuta, un po' no, non era una battuta, ma non fa niente, guarda, però non era una battuta, era molto accalorato Telese, dunque non era affatto una battuta. Tra l'altro lo stesso Telese dice: con i colletti bianchi è una vittoria di Pirro, e poi naturalmente ci sono gli applausi degli operai. Io iscriverei questa cosa nella categoria non ce vo non sta, perché da molte parti nei giorni scorsi, dopo l'esito del referendum Mirafiori, c'è un inno alla, a una sorta di vittoria dei no, come se i no poi avessero vinto, con un titolo abbastanza strano l'altro giorno sul Fatto, no? Ci sono no e uomini, uomini e no, una cosa molto denigratoria nei confronti di quelli che avrebbero votato sì. Nei fatti no, non è questo, ma nei fatti è vero che nei numeri... Sì, vabbè, d'accordo, ma sono, se uno può andare a vedere poi sì la percentuale come si fa durante le elezioni, no? Siamo diminuiti qua, avanzati di lì. Cioè, no, cioè, però i numeri... Ci sono poche chiacchiere. Hanno vinto, chi ha vinto? Al momento è sì, 54%. Ma basta, appunto. Quando analizziamo il corpo elettorale... Ok, perché non ho capito, perché quelli che lavorano come impiegati sono meno, meno importanti di quelli che lavorano al tornio, no? Sono meno, allora... no, sono, diciamo che però se analizziamo, io ho permesso che, voglio dire, se, io l'ho detto più volte, secondo me l'accordo non è sbagliato, ci sono dei punti da migliorare. Allora, ma sì, ma dai, poi si può analizzare, no, che invece in fabbrica hanno prevalso per 9 voti, per 9 voti hanno prevalso i no. Ma scusa, se analizziamo nel merito. Arrivederci e grazie. Ma no, perché nel merito non è così. Nel merito gli impiegati non stanno alla catena di montaggio, quindi forse per loro quei 10 minuti sono meno importanti che non per loro. Hanno diritto di voto anche quelli, siccome hanno diritto di voto anche quelli, il risultato è quello. E ripeto, queste cose qui sono della serie non ce vorno sta. Telese, via. Se la fabbrica dice no al piano, i colletti bianchi dicono sì, per Marchionne è una vittoria di Pirro, vuol dire che ha vinto con gli operai contro e con gli impiegati a favore. Ti dicono no, fermi. No, no, ma c'è un po' un clima a stadio. C'è un clima da stare, ti crede, come è straordinario, c'è un po' un clima, fermi, intanto dietro, viva! Bravo, beh, avevano voglia di sentire delle cose, si vede, sì, no? Sì, no, per carità, è tutto... Di sentirsi rappresentati, è tutto uno show pazzesco. No? Laura da Roma, buonasera, 800 24 00 24, prego. Sì, buonasera, no, volevo dire quello che è stato già detto, cioè chi se ne importa se Berlusconi è fidanzato, che dovrebbe andare a casa, perché comunque la politica assolutamente priva di contenuti la sua politica, e da troppo tempo stiamo assistendo alle sue esternazioni, a quello che succede, cioè siamo veramente stufi dei magistrati, se lui lavora il sabato, domenica per difendersi, è tutto... Cioè, non ho capito lei di che cosa è stufa, Laura. Sono stufa di questa politica che c'è, che viene comunque incrementata da Berlusconi stesso, e non ci sono contenuti, sono imprenditrice, non ci sono leggi, no, c'è una grandissima confusione a livello legislativo, economico. Quindi niente, che non ce ne importa niente se è fidanzato, spero felicemente. Non lo so, se non gli importa niente. Ripeto, noi abbiamo semplicemente raccontato quello che Berlusconi ha detto ieri, e stiamo cercando di capire se è un'invenzione, una strategia difensiva, eccetera. Sì, ma eccetera. Se è un'invenzione o no, cioè, voglio dire, solamente poi alla fine utile solamente alla sua propaganda elettorale, che rispecchia in pieno certi tipi di propaganda già avuti in precedenza. Vabbè, d'accordo. Mario da Roma, buonasera. Buonasera, Cruciani. Prego. Buonasera, Parenzo. Buonasera. Salve, io mi presento, così lei si ricorda chi sono. Io sono quel ragazzo che definiva i politici italiani dei manigoldi e forse un po' di torti, insomma. Non penso di averli. Detto questo, voglio complimentarvi per come state affrontando i fatti di questi giorni, specialmente questo fatto qui, veramente in maniera molto democratica. E questo vuol dire anche che, insomma, uno può avere delle simpatie, come un'altra volta ha detto Parenzo, però, perché a volte gli ha detto che lei è un berlusconiano, insomma, però quando ci sono delle cose serie, dei discorsi seri come questo da affrontare, si dice le cose come stanno, insomma, bravi, mi fa piacere. Poi volevo un attimo fare un intervento sul discorso che ha fatto Berlusconi in televisione. Io sono, veramente sono un elettore del PDL, ahimè, e ho provato veramente rabbia e vergogna quando l'ho sentito parlare. Un uomo che in questi anni non mi è mai apparso in televisione. Aspettavo un intervento sulla crisi. Come non è apparso in televisione, scusi Mario? No, non ha fatto mai un'apparizione decisa come l'ha fatta in televisione. Come non ha fatto un'apparizione decisa, Mario? Berlusconi va spessissimo in televisione. Fatto in televisione, però forse intervistato. Cioè, solo vabbè, certo, a modo suo, ma non è che non sta mai in televisione, sta sempre in televisione. No, forse mi sono sbagliato a dire, scusi, un intervento come questo, cioè con una parola di cari amici. Non l'ha fatto mai. Io aspettavo un intervento per quanto riguarda gli operai della Fiat che sono stati in fermento per il mio paese, per la crisi. Vabbè, invece ha fatto un intervento per difendersi da quello che è uscito in questi giorni. Ecco, vabbè, bravo, ora che cosa vuole? È venuto lì, che cosa vuole? Quei cari amici, aiutatemi a cosa? Io cosa devo credere? Adesso lui deve fare solo una cosa per me. Che dovrebbe fare? Andare a farsi processare. Vabbè. Non esisteva questo suo intervento dopo che io in questi anni non l'ho proprio visto totalmente. L'altra volta si parlava di comunismo. Mario, io non so che cosa abbia visto lei negli ultimi anni, ma Berlusconi sta spesso in televisione, parla, eccetera, i rappresentanti del governo al telefono, interviene, interviste sui giornali, interviste a Canale 5, certo ci sono dei momenti in cui magari sta più in silenzio, ma non è che i presidenti del Consiglio di solito intervengono negli altri paesi a ogni piè sospinto su qualsiasi argomento, mi sembra che da questo punto di vista Berlusconi intervenga anche troppo. Grazie Mario, 800 24 00 24. La signora Patrizia D'Addario in collegamento con noi, buonasera. Sì, buonasera a voi, buonasera. Senta, anche agli amici radioascoltatori. Cara D'Addario, come sta signora, tutto bene? Beh, io ho da fare delle dichiarazioni questa sì, sera. Un attimo solo, signora D'Addario, ma ci può spiegare questa cosa di Parenzo, perché ridi, non ho capito? Perché no, perché è partita subito in quarta, le so salutarla, deve come sta. No, no, ma infatti fare delle dichiarazioni, benissimo, le farà, non c'è problema. Volevo chiedere alla signora D'Addario, doveva essere ospite questa sera al programma di Gad Lerner, cosa è successo? Cosa è successo? Io quello che ho da dire, la verità l'ho sempre detta, e dicendola questa mia vita è diventata un inferno. E va bene. E vedendola distorcere questa mia verità in tutti i modi. Sì. E questa verità mi ha fatto perdere pure gli affetti più cari, gli affetti familiari più cari. Non ho più una vita normale, sia dal punto di vista affettivo e sia sotto il profilo economico. Sì. In questo anno e mezzo sono riuscita ad andare avanti solo grazie alle mie forze. Sì. Da tutta questa vicenda non ho guadagnato un solo euro. Ma io le stavo chiedendo perché non è stata abitata da Gad Lerner. Non... Che è successo? Non sto a parlare, sto solo subendo contraccolpi negativi e non positivi. Vabbè. Infatti ho seri problemi nella mia quotidianità lavorativa di vita e personale. Ricevo numerosi inviti che purtroppo mi vengono cancellati all'ultimo momento, come ad esempio l'invito fattomi da Gad Lerner per la puntata dell'infedele e cancellatomi solo nel pomeriggio. Questo le può far capire quanto sentire la verità faccia paura. Sono l'unica che ha detto il vero, quindi la mia presenza in TV non è gradita per non sentirla. Beh, c'è una spiegazione, che ha dato la dirigenza della Sette, che è quella che diciamo si sa tutto della storia di Patrizia D'Addario, non c'è nessuna cosa giornalistica in più, che Gad Lerner non era d'accordo con questa decisione, ma si è adeguato a quello che ha deciso l'azienda. Ma vi siete parlati lei e Gad Lerner? Beh, io ho parlato con la sua segreteria personale. Sì. Quindi lui mi ha fatto le sue scuse, io lo ringrazio per questo, ma credo non è la prima volta, non è la prima volta questo, quindi anche quando c'è stato l'invito ad Anno Zero, all'ultimo minuto hanno cercato di non farmi andare in onda. E come ho già detto, questa verità faccia capire quanta paura c'è. Senta, ma quello che sta leggendo lei in questi giorni, mi scusi un attimo, signora D'Addario. Signora D'Addario, mi scusi un attimo. Non è gradita. Vabbè, non è gradita, d'accordo, ma non è gradita. Sì, insomma, lei ha fatto. Era già stata poi lei alla Sette. Sulle interviste ha fatto dei giornali, alla Sette pure era stata altre volte. Senta, le voglio chiedere una cosa, ma le cose che stanno uscendo in questi giorni sui giornali, su queste feste, eccetera, eccetera. Lei che ne pensa? Cioè, ci crede a queste feste, festini, orge, harem, eccetera, eccetera? Io parlo per me. Io ho già detto la mia verità un anno e mezzo fa. Sì. Io voglio solo farvi capire, immaginate vivere così solo dopo aver detto la verità. Io ho fatto quello che ho fatto spinta dalla disperazione e non da sete di guadagno e successo. Sì. Non è mai stata mia intenzione ricattare nessuno, sono stata chiamata da un giudice e da quel momento è tutto un inferno. Se potessi stare indietro non vorrei neanche mai avvicinarmi ai palazzi del potere. Ribadisco che dal Presidente del Consiglio io non ho mai ricevuto denaro, favori e cortesie particolari, al contrario di tutte le altre, che invece hanno sicuramente migliorato la loro posizione economica. Queste persone, infamando me, hanno ottenuto denaro e cortesie. Da oggi non intendo più parlare di questa storia. Ho capito. Allora, sociali. Sì, intendo occuparsi di problematiche. Intendo occuparsi di problematiche sociali. Solo di problematiche sociali, come del resto ho sempre fatto in tutti questi anni. Vabbè, adesso però non è che sia da Dario. In prima persona, se mi lascia finire, intendo anche occuparmi di una dichiarazione ufficiale. Comunicato della cancelleria della signora Daddario, signora Daddario, non è che possiamo ascoltare perché no, comunicato ufficiale della sua comunicato ufficiale della sua cancelleria, va benissimo, per carità, lei dice. Ma non è della mia cancelleria, è della mia persona, di quello che ho subito in questo anno per aver avuto il coraggio di dire questa verità. Ma non mi pare che la gente stia subito, questo non capisco, davvero le voglio bene. Signora Daddario, non mi pare che però scusi, ha subito, che è successo? Sì, no, a parte quello che ha subito lei, adesso non voglio entrare nei dettagli, ma non è che il palazzo romano stia tremando per le sue dichiarazioni, insomma, non è che la gente. Ma nessuno, io l'ho semplicemente detto la verità, e se per questa verità la devo pagare, mentre le altre sono state pagate, immaginate come si può vivere. Ma lei qualche soldo l'ha anche qualche soldo per quella sera l'ha anche preso, no? Perché l'Italia. Come? No, dico, lei qualche soldo indirettamente l'ha preso per quella serata, mi sembra. Assolutamente no. 1000 euro, quanti erano? 2000, non mi ricordo. Ascolti. No. Io non ho preso soldi. Io non ho preso soldi in tutto quest'anno e mezzo. Non io quest'anno non... e mezzo, non per quella serata. Nel lettore di Putin, lì all'epoca. Io del non lettore... sono stata pagata dal Presidente del Consiglio. E lo da Tarantini è stata pagata, no? Da Tarantini, da Tarantini, sì, però. Ascolti, io non sono stata pagata per andare mai a letto con nessuno. Benissimo. Ognuno è libero di fare quello che vuole nella propria vita. E io ero abbastanza disperata per il suicidio di mio padre. Registriamo. Allora, se questa storia deve essere strumentalizzata, io oggi dichiaro che intendo in prima persona occuparmi attivamente di politica. Perché di politica, lo scenario benissimo politico che vedo oggi. Ma di cose sociali o di politica? Scusi un attimo, di cose sociali o di. Il punto della mia vita, il mio unico serio, fermo obiettivo è quello di riprendere in mano le redini della mia vita, mostrandomi queste golezze e che potrebbero aumentare solo fuochi, che mi porterebbero a riprovare la paura ho chiamato, all'inizio di questa storia. Davide, ho chiamato. L'altro non è mai stato un gol. Io vivevo nel terrore, con minacce di morte, mia e della mia famiglia e sulla mia bambina. Ma però questo credo, credo con l'educazione gentile. Scusi, con chi vuole fare la politica? Scusi, signora Daddari, con chi la vuole fare politica? Con Paolo Guzzanti, col Partito Liberale, con chi la vuole fare? In questo momento non intendo più, rilasciare dichiarazioni. No, perché? Aspettiamo. Ma l'educazione non parli come Cicchitto, su non intendo rilasciare dichiarazioni. Ma lei sta parlando come Cicchitto, come un esponente. Questo è iniziato il giorno 17. Oggi desidero che finisca. Grazie. Prego. D'accordo. Prego. Cosa si capisce? Ma che dobbiamo fare? Cioè, ma come è chiuso? Ma che roba è? È chiuso, cos'è? Non lo so. Cioè, non ho capito, tu l'hai chiamato, gli hai detto giustamente, facciamo l'intervista. Hai telefonato, l'hai passata, è partita in quarta e poi ha chiuso. Non intendo rilasciare dichiarazioni. Ma quindi? Non intendo rilasciare dichiarazioni, che vuoi fare? Cioè, è così va la vita. Pubblicità. Ci sono mille domande da fare alla signora. Pubblicità, vabbè. L'ambulanza va mentre la città. Va bene, va bene. Caro Parenzo, siamo qui 800 24 00 24, mentre sta venendo giù tutto per questa storia. Matteo, provincia di Forlì. Dica. Sì, è uguale. Buonasera. Sì. Niente, io pensavo, perché lei ha detto che è una stupidità, è una cosa non che lei pensa non sia opportuna, quella di aiutare nell'ambito privato delle persone, che siano uomini o donne. Ma io non ho detto che non è opportuno, ognuno può fare quello che vuole, no? Appunto, l'importante è non sbandierarlo troppo, insomma. Cioè, questo col fatto che lui non abbia fatto delle politiche liberali, come dice Parenzo, non c'entra assolutamente nulla. Cioè, ma questo non c'è, effettivamente. Che va in televisione a dire di essere a carico? Il presidente dei ministri, il presidente del consiglio, non ha la coda come abbiamo noi. Non scusi, amico mio, dovete comportarsi meglio degli italiani che vanno in Romania, che parlano sempre di sesso ovunque, che poi fanno i moralisti, gli ipocriti. Questo che c'entra, scusi Matteo, questo è un altro argomento. Dovrebbe fare il norvegese, non l'italiano. Lui è un italiano e rispecchia il suo paese. Che vuol dire rispecchia il suo paese? Mi scusi. Ipocriti che poi vanno in Romania a farsi fare i massaggi e poi dicono: però il presidente del consiglio non può. È una roba proprio assurda, via. Matteo, però mi spieghi bene questo concetto. E nessuno dice che deve essere al di sopra degli italiani o migliore degli italiani. Non capisco il parallelismo che lei fa tra un italiano che va a farsi fare i massaggi in Romania, posto che ci sia qualche italiano che va a fare i massaggi in Romania, e Berlusconi. Non ho capito. Ma perché quelli che hanno una condotta morale ineccepibile sono pochissimi. Sì. Quindi le persone dovrebbero far la morale agli altri. Guardi che a me non me ne frega niente della vita privata che fa Berlusconi. Per me può fare tutti i bunga bunga che vuole a casa, sì, non mi interessa. Ma io polemizzo con quella marea di gente che invece prende questo tipo di posizione. Che è ma che dice? Ma qui stiamo parlando di reati, non di sesso. Ma cosa sta dicendo? Qui stiamo parlando di reati. Ma anche i reati. Cominciano a trovare nella sua vita. Sai quanti gliene trovano? Nella mia? Sì, gliene trovo adesso. Io non ho nulla contro di lei, non so niente. Ma potete scavare, ma certamente, ma non c'è. Ma perché gli italiani di reati ne commettono un sacco, voglio dire. No, ma che significa? Matteo, io non ho capito bene qual è la sua posizione. È un discorso assurdo, francamente. Assurda, cioè, siccome un sacco di italiani commettono reati, allora diciamo che Berlusconi può anche non risponderne. Questo mi sembra un po' la sua posizione, ma insomma, non mi pare particolarmente difendibile. Può anche non risponderne. Voglio dire che l'Italia è un paese dove non commettere un reato è difficilissimo. Vabbè, a parte che non è vero, Matteo, cioè, c'è un sacco di gente incensurata che non commette nessun reato, insomma. Cioè, non mi pare proprio che la situazione sia questa. Poi io credo che lei in realtà si riferisca a quelli che fanno moralismo pur non avendo nella patente, ma in questo caso non si sta parlando di chi, diciamo, va a prostitute e poi invece fa il moralista a casa sua. Si sta parlando di un'altra cosa, di ipotesi di reato particolarmente gravi. Ora io dico, c'è sicuramente una guerra in corso tra una parte della magistratura milanese, io ci credo a questo qua, e il presidente del consiglio, su questo non c'è nessun dubbio. Ci sono dei magistrati che pervicacemente inseguono dei reati che riguardano il presidente del consiglio. Diciamo che in questo caso Berlusconi ha offerto un certo tipo di materiale, diciamo, a questi magistrati. Io dico solo questo, mi limito a dire questo. Beh, insomma, ha dato adito, si può pure evitare di organizzare feste con 28 persone o festini con 28 persone, posto che uno li può anche organizzare, però forse la protezione va al di là dei reati, naturalmente, la protezione intorno a queste cose forse va gestita in maniera un attimino di compizzico più certo, ma questo più però forte. Parliamo di un altro piano, questo è tutto un altro piano. Io sono d'accordissimo che è un po' sbruvaldone lui nelle sue poi cose. Detto questo, magari i reati non però ci sono, e secondo me non ci saranno i reati, sarà difficilmente dimostrabile tutto questo, sia i rapporti sessuali sia le cose, però insomma questa è la mia prima così analisi, avendo leggiucchiato qua e là, non le so dire di più. Fatto sta che provare questi reati, poi provare sia il reato quello di prostituzione minorile, cioè il reato sessuale, sia la concussione, mi pare particolarmente improbo. Però insomma, certamente quello che sta avvenendo in queste ore non ha nulla a che fare con i reati, è un altro tipo di, no? Un altro tipo di problema, che sia per un problema politico, un problema di immagine, un problema anche internazionale, se vogliamo, no? Matteo, grazie. La 7, la 7 titoli. Dalle carte segrete uno scenario shock, molte ragazze prostituite col presidente Berlusconi, disposte a tutto oppure ve ne andate, raccontano le intercettazioni dove si parla di feste allucinanti, battaglia alla Camera, mercoledì si vota. Le intercettazioni dipingono Nicole Minetti come la grande organizzatrice degli incontri con le ragazze. Rubi racconta: Berlusconi ho chiesto soldi, 5 milioni. Lui mi ha detto prima di fingermi pazza e poi che avrebbe coperto d'oro il mio silenzio. Attorno al premier fa quadrato il PDL che parla di persecuzione. Cicchitto, si tratta di un blitz militare, libertà a rischio. Berlusconi chiarisca tutto se può, oppure se ne vada, è la richiesta che arriva dall'opposizione. Esiste davvero la fidanzata dal premier? La donna evocata ieri dallo stesso Berlusconi nel videomessaggio, secondo molti è solo una fantasia, una donna dello schermo, ma i nomi della Pascale Albonasia ora si intrecciano e si accavallano. Torna un ospite da noi, è Walter Veltroni, che parlerà ovviamente di questa giornata particolare, ma torna anche il sondaggio del lunedì. Il PDL è stabile al 30, il PD al 24,3. Tunisia, nuovo governo, una promessa, fuori subito tutti i prigionieri politici, elezioni entro 6 mesi, ma nell'esecutivo rimangono i uomini del vecchio regime. Eccoci qui, vorrei inviare i titoli della 7 al signore di Milano, tornato dall'America, così tanto per... Tanto per gradire. 800 24 00 24 Gianmaria da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Ci mancava la Daddario in politica, eh? Sì. Solo lei. Non abbiamo capito se si candida. Come, non si è capito, abbiamo chiamato l'ambulanza perché a un certo punto voleva esatto, fare. Esatto, ce ne vorrebbero due o tre secondo me. Voleva fare una dichiarazione in stile Cicchitto, in stile non so chi altro, Finocchiaro, altre cose. Insomma, si capisce che il ruolo ancora tutto non è quello. Tutto pare che il TG1 abbia aperto. Sentiamo come ha aperto. Un attimo, Gianmaria, un attimo solo. Sentiamo come apre il TG1, solo il primo titolo, eh. La Tunisia volta pagina, ha formato un nuovo governo di unità nazionale, ancora disordini, le testimonianze. Oh, il nuovo governo della Tunisia! Vabbè, adesso non esagerare, su, ma povero Minzolini, dai, dai, su. Ma scusami, qua sta crollando tutto! Dramma in Tunisia, meraviglioso! Secondo titolo. Secondo, andiamo col secondo. A gennaio probabilmente fa più freddo che ad aprile. Terzo titolo. Testimonianze degli italiani rientrati. Dossier rubi alla giunta per le autorizzazioni che si riunisce mercoledì. Secondo, secondo, dai, su, il secondo. Primo, primo dramma in Tunisia, primo dramma. No, dossier rubi è arrivato, secondo, no. Secondo. PM 38 anni fa la strage di potere operaio. Cioè, la differenza è questa, per carità, sono c'è un pubblico fondamentalmente diverso, che Lerner ha fatto i primi 6 titoli, se non se Lerner, scusate, Mentana i primi 6 titoli, se non 7 addirittura sulla vicenda di Rubi. Di analisi pubblico diverso, fatto. Pubblico diverso. Ma che pubblico diverso? No, pubblico diverso, vabbè, pubblico diverso. E poi Mentana fa l'8% e quello perde ascolti, è meraviglioso. Sì, ho capito, però pubblico che è diverso. Poi pare di sentire l'apertura del TG, perché se uno magari, vediamo così, uno è appena atterrato dall'America, no? Come il signore di prima. Esatto, cioè dice, va, ascolta un po' la radio, la musica, arriva a casa e accende il TG1. Sentiamo come è aperto il TG1, fallo risentire, ti prego, via, meraviglioso. TG1, titoli. La Tunisia volta pagina, formato nuovo governo di unità nazionale, ancora disordini, le testimonianze degli italiani rientrati. Bene. La cosa più straordinaria è la Tunisia volta pagina, ha formato un nuovo governo di unità nazionale, cosa che ci potrebbe essere anche in Italia, chissà. La Tunisia volta pagina. Gianmaria da Milano, la Tunisia volta pagina. Eccomi. Dica. Meno male, almeno loro. No, volevo dire che forse per una volta quello che poteva essere utile al nostro Presidente del Consiglio era forse stare in silenzio, cioè non mettersi a non tirare fuori un altro videomessaggio, la questione della fidanzata vera o presunta. Non vorrei, cioè, peggiora soltanto la situazione, secondo me. Forse per una volta era meglio andare direttamente soltanto al processo e vedere un po' come si sarebbero chiarite le cose. Ma io non credo che Berlusconi, francamente, non credo che Berlusconi tenterà qualsiasi cosa pur di non andare a processo. Su questo no, mi sembra in dubbio. Sicuramente l'ha studiata. Ma non credo che sia una. Non credo, al di là di quello che potrà tentare nei limiti delle cose che sono consentite, non credo che si inventerà uno strumento legislativo in più in queste ore. Tutto è possibile se seguiamo anche la satira, eccetera. Ma non credo che sia realisticamente. Sì, però non credo che sia sostenibile una situazione in cui Berlusconi va a processo per reati di questo tipo e il fatto che continui a fare il Presidente del Consiglio. Mi sembrano due cose oggettivamente incompatibili, insomma. Perché da poi tutto è possibile, però insomma, andare alle udienze in cui Berlusconi e i difensori discutono, lei è andata a letto con Rubi, eccetera, e poi va a fare il vertice, eccetera, francamente non mi pare possibile. No, forse il modo in cui ha avuto lui di affrontare questa cosa è un modo appunto per sviare il tutto. Tanto si sta tutto riconducendo a un gossip adesso, tanto è centrale, tranne che per il TG1, è centrale più che altro la questione adesso della fidanzata, insomma è un po' una soap opera. No, ma la fidanzata, guardi, nessuno ha preso la cosa della fidanzata seriamente, questo è il punto fondamentale, anche perché, devo dire la verità, ripeto per l'ennesima volta, non è che dire che ho una fidanzata ti salva da qualche cosa. Lui dice ho la fidanzata che era presente a questi incontri, non poteva mai permettere che io facessi delle cose. Adesso francamente, cioè, io non so chi se l'è inventata questa cosa, ma mi pare una boiata pazzesca, cioè, proprio. Mi pare una cosa anche dal punto di vista difensivo piuttosto fragile, e poi anche dal punto di vista comunicativo, perché la gente si mette a ridere, cioè, l'altro giorno Giorgio Stracquadano qui ci ha detto, ma io gli ho chiesto, ma Berlusconi si dovrebbe fidanzare? No, ma perché, insomma, dava per scontato che Berlusconi non fosse fidanzato. Adesso, per carità, potrebbe anche non sapere nulla Stracquadano, però insomma, sì, è vero, bravo, mi pare complicato. Pubblicità. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Siamo qui alle 20.13, 800 24 0024 per chiamarci in diretta. Molti ascoltatori. Stefano da Milano, buonasera. Buonasera, salve. Dica. Allora, intanto colgo l'occasione della chiamata della Daddario, essendo pugliese anch'io, giusto per rasserenare un po' anche gli altri pugliesi e dire a tutti quanti che insomma, la Puglia è anche altro sostanzialmente. Ma questo non c'era bisogno che lei lo specificasse, Stefano. Non è che quando parla un pugliese rappresenta tutta la Puglia. No, mi sembra una me ne rendo conto, ma siccome ho provato personalmente vergogna a sentire che sostanzialmente una persona che per carità di Dio ha scelto di fare un mestiere rispettabilissimo come quello che può essere la escort, no? Cosa che lei nega, peraltro. E che non lo rinnega, però che no, lei rinnega, cosa che lei nega. Cioè, comunque, Stefano, non si preoccupi, non sappiamo benissimo che la signora Daddario non rappresenta la Puglia. Semmai qualcuno possa rappresentare la Puglia, magari Checco Zalone rappresenta la Puglia in questo momento. In questo momento, sicuramente. Comunque, tornando al discorso perché avevo chiamato, che è quello della veridicità o meno, no, della ragazza di Berlusconi. A proposito, sentiamo la 7 su questo. Come una delle probabili fidanzate, ma anche Ignazio La Russa e Daniela Santanchè. Per il resto il totonomi è esploso, tutti a caccia della nuova First Lady dopo la separazione da Veronica Lario. Fu proprio la Lario a denunciare in principio quel ciarpame senza pudore che oggi ha fatto precipitare l'ex marito in una vicenda delicatissima. Le papabili sono diverse, ma secondo i ben informati il cerchio si stringe intorno ad alcuni nomi. Si va dalla più quotata Francesca Pascale, ex velina di Telecafone, nonché consigliere provinciale di Napoli, in quota fidanzata ufficiale, come già detto, la stessa Minetti, mentre le voci si rincorrono anche su Cristina Ravò, pianista e cantante sassarese. Ma gli occhi e i ricordi si riaffacciano anche su Federica Gagliardi, la misteriosa dama bionda che improvvisamente accompagnò il premier in una visita a Toronto pochi giorni dopo aver preso servizio presso la regione Lazio guidata da Renata Polverini. Bionde, rosse o more, tutte interpellate, smentiscono, mentre dagli atti spunta il nome di Roberta Bonasia, 26 anni, vincitrice lo scorso anno del titolo di Miss Torino. Nelle intercettazioni si parla di lei come possibile compagna del Presidente del Consiglio. Sei contenta? Per ora però quel posto a tavola nella foto di famiglia per la cena natalizia pubblicata dal settimanale Chi resta vuoto e chissà ancora per quanto. Va bene, allora Stefano, che mi vuole dire? No, volevo dire semplicemente che trovo improbabile che si tratti di una fidanzata per due ragioni. Una di senso proprio comune. Normalmente queste persone così in vista non fanno mistero, insomma, a mostrare la donna che le accompagna, non fosse altro per evitare scandali di questa natura. E la seconda è che, ascoltando attentamente quello che è stato poi il messaggio di ieri di Berlusconi, lui parla sempre in maniera un po' fumosa di questa donna, ne parla anzi sempre al passato, mai al presente, quasi come a mettere le mani avanti, no, rispetto a ipotetiche richieste sui nomi di chi fosse questa persona, in modo tale da poter dire c'era una persona, magari oggi non c'è più. Non lo so, stiamo parlando del niente, siamo d'accordo. Comunque il tema resta il fatto della ricattabilità di questa persona, che non risolverebbero nemmeno, secondo me, delle nuove votazioni, perché andassimo a votare, vincesse di nuovo, potrebbe continuare a essere ricattato al di là di tutto. La ringrazio. Va bene, traffico, torniamo subito. Siamo qui, escono ancora intercettazioni, ripeto, Rubi parlando col padre, Berlusconi ha detto al suo avvocato di pagarmi tutto quello che voglio, basta che io non dica che di lui, che lui sapeva della mia età, e a un amico, per lui Noemi è la pupilla, io sono il C, cioè il di dietro. Nicole Minetti a Fede, rapporti orali a 300 euro. Alcune delle conversazioni che il Premier potrebbe spiegare ai magistrati. Com'è? Carissimi, dico. Ho capito. No, mi pare un tarifario un po' sui generi, ma al di là del tarifario, ma vogliamo parlare di Cicchito o no? Che dice che cosa? Blitz militare. Blitz militare. Io ci sono a Roma, in Piazza di Pietra, a due passi da Montecitorio. Blitz militare dei magistrati, naturalmente. Ma non vedo carri armati. Come mai? Un golpe militare dei magistrati. Non vedo carri armati qui. Come mai non ci sono... Vabbè, è una metafora, è una metafora, è una metafora. Ma che metafora? Ma poi il capogruppo, e allora diciamo, allora vale tutto, vale la Dario che si candida, vale la qualunque ormai. Non lo so, ma è una metafora come tante, che vuol dire semplicemente che secondo Cicchito è un'operazione dei magistrati volta a destabilizzare il sistema politico. Non, no, mi, pare, non mi sembrano dichiarazioni, sì, appunto, l'operazione dei magistrati, cioè le indagini, volta a destabilizzare il quadro politico. Non mi sembra una dichiarazione così diversa come quella. Come quelle che sono state fatte negli ultimi 15 anni da esponenti del Popolo della Libertà o del centrodestra quando c'erano delle inchieste giudiziarie. È diversa perché ora è un tornado quello che sta. Sì, e appunto lui dice un blitz, e infatti lui dice un blitz militare, diciamo, non intendendo chiaramente un blitz con i carri armati, ma un blitz militare in stile militare, un raid. Ma lo fa perché intelligentemente. Sentiamo Veltroni su questo. Veltroni è importante. Ma guardi, appunto, quando abbiamo concordato questa presenza qui non immaginavamo di dover discutere di questo, e purtroppo di questo si discute in Italia da moltissimo tempo. In una giornata come questa non credo che Obama, Sarkozy o la signora Merkel si stiano occupando di cose simili. Si staranno occupando dei problemi del lavoro, della situazione finanziaria. Vabbè, questo è un dato di fatto, però, Veltroni, andiamo al solito. Non può essere considerata esclusiva responsabilità dei magistrati. Penso che se i magistrati sono trovati di fronte a delle circostanze sulle quali dovevano indagare, hanno fatto il loro dovere, e penso che sarebbe giusto che il Presidente del Consiglio rispondesse ai magistrati, desse i chiarimenti dal suo punto di vista, perché è chiaro che qui non è in gioco la vita privata del Presidente del Consiglio, che è fuori di discussione. Sono in gioco, se sono vere le cose che abbiamo ascoltato, violazioni di legge, e questa evidentemente è una questione di ben altra dimensione. Però ecco, questo paese credo sia stanco, penso che tutti noi viviamo ormai da 15 anni in questa situazione, è un paese che non riesce a cambiare se stesso, è un paese che non riesce a fare un progetto, è un paese che non riesce a velocizzare la sua vita. Il paese che non cambia niente, 15 anni, sempre le stesse cose, eccetera. Fino adesso ci sono due cose abbastanza banali, ci sono violazioni di legge, dunque Berlusconi deve rispondere di violazioni di legge, non si tratta della privacy o della vita personale. Vabbè, questo l'abbiamo capito, sì, è abbastanza banale, insomma, però ci può stare. E poi il fatto che da 15 anni Berlusconi ha a che fare con problemi di questo tipo che riguardano la sua vita privata e gli affari, cioè Berlusconi, ecco, sostanzialmente. Poteva, diciamo, stare sentiamo se c'è qualcosa di nuovo, Veltroni, su, avanti. Sostanzialmente concentra la vita pubblica e, ripeto, può esserci stato in qualche momento qualche eccesso dell'opposizione, può essere, però non può esserci stato solo eccesso dell'opposizione. Evidentemente in questi 15 anni sono emersi una serie di comportamenti, di scelte sul piano pubblico, sul piano legislativo, che hanno spostato l'attenzione da 60 milioni di italiani a un italiano, ed è quello che Berlusconi ha fatto in questi anni. Senta, lei impostò nel 2008, dicevo prima, sembra un'epoca storica lontana, nel 2008 impostò la campagna elettorale sul un rapporto di rispetto reciproco con il principale esponente. Non lo nominava, avverso. Che prima ancora della campagna elettorale rispetto disse, sì, nel senso che c'era una sorta di riconoscerci reciprocamente tra le grandi una sorta di no di anche successivamente di intesa, quasi di tentativo di intesa, però non disse mai Berlusconi proprio rispetto, non mi pare. Comunque, con quello che è successo dopo, lei rifarebbe quella trafila? Ma guardi, Berlusconi aveva vinto le elezioni provinciali, altro che sdoganato. Berlusconi era già in una condizione di assoluto predominio dal punto di vista dei sondaggi e dal punto di vista del consenso. Il governo Prodi viveva la situazione di difficoltà che tutti noi ricordiamo, la fatica di stare in piedi, il voto di maggioranza che mi sono annoiato già. Andiamo a Milano. Antonio, buonasera, 800 24 00 24. Buonasera. Dica. Allora, volevo intervenire su Berlusconi perché mi sono ricordato incredibilmente che quell'uomo ha preso degli impegni abbastanza importanti, continuo a dirlo del resto, con gli italiani. Sì. In rimbalzo, uno degli impegni che ha preso si chiama federalismo. Sì, lo sappiamo, però Antonio, non mi sembra la serata adatta per parlare di federalismo. No, sembra la serata adatta per parlarne, perché non vorrei che il federalismo finisca nelle mutande del Premier. Ho capito, dottore, lo vedremo se, come dire, la caduta di Berlusconi, se ci sarà e quando ci sarà, trascinerà con sé anche il federalismo, questo federalismo, eccetera, eccetera. E mi sembra sempre di più e continuo a insistere. Sì. Una politica da Stato sudamericano, una cosa terrificante in cui a volte mi vergogno di essere. Che vuol dire una politica in stile sudamericano? Mi scusi, non ho capito bene. Vuole dire che mi sembra... Sì, va bene, usiamo questo termine un po' troppo abusato, una repubblica delle banane. Sì, però Antonio, cosa vuol dire? Mi spieghi bene, perché non è che basta lanciare lo slogan, la Repubblica delle Banane, che vuol dire? Voglio dire che purtroppo mi sembra che abbiamo ancora una volta, siamo ancora una volta davanti a un governo, e in questo caso impersonato per le cose che diceva prima da Silvio Berlusconi, che per ragioni o per torto è impossibilitato a fare il suo lavoro e adesso si trova anche invischiato. Va bene, Francesco, lei ci sta dicendo quello che cui stiamo assistendo tutti, mi dica la sua valutazione, non capisco niente, se no lei ci sta dicendo il governo ha dei problemi, ma insomma è una novità, è una cosa nuova. Sentiamo, pronto? Io mi auguro che quel maledetto governo... Un attimo solo, telefonino, pronto? Chi è? La signora Minetti. Minetti? Eh sì. Ullala, che scoop. Beh, insomma, vediamo. Beh, no, già il fatto che squilli è uno scoop, Dici? Grande questa zanzara, però. Pronto. Signora Minetti, buonasera. Sì. Questa è Radio 24, la zanzara. Come sta? Sì. La disturbo? Guardi, mi puoi richiamare in un altro momento, per cortesia? Un altro momento qua, mi dica lei. Sì. Guardi, una mezz'oretta, per favore. Una mezz'oretta? No, risponde, vero? Risponde? Sì, rispondo. Risponde, una mezz'oretta, facciamo un quarto d'ora. Facciamo ok, quarto d'ora. Va bene, la ringrazio, buonasera. Grazie, signora Minetti. Ma secondo me non risponde più, Però questo male, Ma ci siamo fatti fregare, secondo me, No, ci siamo esclusivo, fatti fregare. Due punti, parla la Minetti alla zanzara. Che stupido che sei. Mi può richiamare? Beh, no, però nessuno... Però posso dirti? Seriamente, nessuno aveva mai sentito la voce della Minetti. Ma no, non è vero, non è nessuno, vero. Nessuno. Da qualche parte c'è. Per esempio Sky TG24, sentiamo un po' Minetti di oggi. Non sono io la donna di Berlusconi, non dico ma chi ha è. Ma ha parlato in video, cioè proprio? No, in video no, sempre telefono. Vedi, sempre telefono. L'audio, io dico l'audio. Sentiamolo. Minetti, non sono io la donna di Berlusconi, non dico chi è perché è vita privata di Berlusconi, via. Ne sono onorata, però sinceramente non so chi sia questa persona, ecco, questo è un'informazione che comunque riguarda la vita privata del presidente, non mi permetterei mai di azzardare nomi, ecco. Comunque non è lei? No. Ma sa chi le ripeto, è? Cioè, le ripeto, non, in questo momento preferisco non esprimere perché comunque è la vita privata del presidente, non mi sembrerebbe carino, ecco. Pure la Minetti, dunque, insomma, insiste su questa storia della fidanzata di Berlusconi. Sapevo di persona a fianco di Berlusconi, sempre la Minetti, che però non parla dell'inchiesta, del fatto che insomma lei avrebbe avuto, sempre secondo i magistrati, un ruolo nel procacciare donne a Berlusconi, dunque da qui il reato di induzione alla prostituzione. A me sembra una cosa fuori dal mondo comunque che si possa parlare di questo tipo di reati, ma comunque insomma, questa è la mia valutazione. Sapeva però che questa persona esisteva nella vita del Presidente del Consiglio? Assolutamente sì. Beh, assolutamente sì. Esiste una dama bianca, come la vogliamo chiamare, secondo Nicole Minetti. Tenteremo fra 10 minuti, tentiamo, Noi, però guarda, emozionante, questa diretta così. Diretta, questa non è registrata, in diretta, perché altrimenti se uno concorda non funziona. No, sei stato, guarda, bravissimo. Forse varrebbe la pena stemperare questa tensione con il TG1, forse varrebbe la pena, no? No, il titolo sulla TG1. Stemperiamo la tensione col TG1. Borsa invece. Sì. Le zanzare di casa. Eccoci qui, 20:34, 800 24 0024. Allora, Francesco da Perugia, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Senta, no, volevo dire una cosa riguardo sempre il discorso Rubi Berlusconi. Io mi stupisco, cioè diciamo che Berlusconi è normale che viene accusato di una cosa vera o falsa, lui si difende, diciamo. Voglio dire, una persona in questi casi o si dimette oppure dice delle bugie, ovviamente, non è che può ammettere tutto, ovviamente. Ma dico, io mi stupisco del fatto che nessuno della sua parte politica abbia una dignità, minimo di dignità, di dire la verità. Cioè lui è preso proprio, diciamo, è stato preso in castagna come i bambini, diciamo, mi rendo conto e dice non sono stato io, non è niente vero. Ma uno, che dico uno, del PDL, che abbia un minimo di dignità di dire, guardi Berlusconi, io l'apprezzo per tutto quello che ha fatto, è un grandissimo imprenditore, però questa volta ha sbagliato, voglio dire, è possibile che tutti mentono? Possibile che non c'è un minimo di dignità in questo paese? Lei che cosa vorrebbe? Che qualcuno nel PDL avesse un sussulto di che cosa? Di intelligenza. Di, per dire cosa? Per dire cosa? Berlusconi ha sbagliato? Per dire la verità. Cioè, per dire la verità cosa? Tutti, quale verità? Sappiamo tutti che i festini avvengono, sappiamo tutti che ci sono delle donne, maggiorenni o minorenni che siano, a parte quello. Non è proprio la stessa cosa, insomma, maggiorenni però, o minorenni. Insomma, d'altra parte questo scandalo non sarebbe scoppiato, i magistrati non avrebbero indagato se poi non ci fossero, se non ci fosse stata di mezzo una minorenne. Insomma, no. Molta gente è schifata anche se sono maggiorenni, cioè io per primo. Ma io francamente non sono schifato da nulla, perché ognuno a casa sua fa quello che vuole, l'importante è che poi non mi propongano leggi punitive sulla prostituzione, ecco, queste non le voglio. No, io sono d'accordo con lei che ognuno a casa sua fa quello che vuole. Però sei un imprenditore, non sei il presidente del consiglio. No, ma anche se è presidente del consiglio, no. Però primo dovrebbe fare in modo di non farlo sapere, secondo non dovrebbe fare leggi punitive nei confronti dei clienti della prostituzione. Queste sono le due cose che mi interessano. Secondo me il presidente del consiglio, ma anche un semplice parlamentare, non deve farlo. No, ognuno a casa sua fa quello che vuole. Importante essere discreti, ma anche da presidente del consiglio. Importante essere discreti, importante avere un cordone di protezione adeguato, cosa che non mi pare che sia avvenuta, e soprattutto è importante che i propri comportamenti all'interno delle mura domestiche non siano eccessivamente in contraddizione con alcune leggi, per esempio la legge che vuole punire i clienti della prostituta. A me interessa questo aspetto qua. Poi i bunga bunga, le orge, i giochetti, i palpeggiamenti e tutte le altre cose non mi interessa, cioè non sono cose interessanti. Sì, i tradimenti, 20 donne, 28, 50, ognuno fa quello che vuole. Quello è miliardario, paga per avere 30 donne, va benissimo, è importante che non si sappia. Sì. Ma se posso dire un'ultima cosa, le spiego perché secondo me una persona che fa un lavoro politico, un parlamentare, ministro, quello che è, non deve farlo, perché semplicemente mi sta rappresentando. No, però mi scusi Francesco, cosa c'entra che la sta rappresentando? No, ma scusi, ma lasci perdere, i suoi Berlusconi non ha certo bisogno dei suoi soldi, abbia pazienza. Quali sono i miei soldi e quali sono i suoi? Vabbè, ma non scherziamo, adesso so, Berlusconi, se c'è una cosa che possiamo dare per certa è che non ha bisogno dei soldi del contribuente per pagare le prostitute. No, ma ho capito, Francesco, il punto non è questo, non lo voglio dire per giustificare Berlusconi, per carità, non è questo il punto. Ripeto, secondo me il punto interessante è che un politico può fare quello che vuole, in particolare il Presidente del Consiglio, ma lo deve fare in modo che non venga fuori, ma sto parlando naramente della gestione della propria vita privata, in modo che non appunto, si sappia nulla. Il momento che viene fuori si rimette. Il momento che viene fuori dimettersi, adesso non lo so, dimettersi. Queste sono questioni delicate. Una persona normale l'avrebbe fatto, quindi una persona non lo so, fino alla morte. Non vabbè, ma insomma questo è un altro discorso. Sulle dimissioni si entra in un campo che riguarda la tenuta di un governo, che riguarda lo Stato, le elezioni, eccetera, eccetera. No, ho capito Francesco. Ex di centrodestra. Claudio da Prato, buonasera. Carissimo Cruciani e valentissimo giornalista, io elevo la mia vibrata protesta. Un uomo come il Cavaliere Berlusconi, Cavaliere Dottor Silvio, non può avere una fidanzata sola. Stiamo scherzando, è una delusione tremenda. Non voglio scomodare la genialità del grande Monicelli, ma risponderei, userei le parole che il grande profetico Monicelli fece dire in Amici miei alla moglie del professor Sassaroli: non sei come ti avevo immaginato. Ma scherziamo. Un uomo come Berlusconi, come il Cavaliere, che ha una fidanzata sola, veda, sempre per rimanere in ambiente cinematografico. Infatti Claudio non ci crede nessuno. Tanto sempre per rimanere in ambiente cinematografico, direi al Cavaliere, se mi posso permettere, ricorderei quelle belle meravigliose figure di qualche anno fa, dei famosi felliniani vitelloni. che avevano sì la moglie in città, ma una serie di fidanzate in campagna, in genere scelte anche in base alla stagione, perché si sceglieva la fidanzata nel momento in cui c'era il vino che avesse il padre che aveva le vigne, o nel momento in cui c'era il maiale che avesse il padre che aveva il maiale, per poter usufruire sia dei piaceri della tavola e dei piaceri del corpo. Veda, per passare dallo scherzo a una realtà antica, un uomo che, pur essendo un genio malefico, aveva degli aspetti di genialità, che si chiamava Joseph Goebbels, ministro della propaganda del signor Hitler, sì, una volta fu contestato perché arrivò con eccessiva pompa a un... a una manifestazione nazista. Sì. I suoi appartenenti al suo partito lo contestarono perché, essendo sostanzialmente dei bottegai, non capivano questa forma di esibizione che lui presentava. Allora Goebbels disse: signori belli, la prossima volta non vengo con una Mercedes sola, vengo con due, una per me, una un attimo per solo, un attimo solo, siamo sempre lì, Parenzo. Minetti? Eh sì. Questo è buono, Minetti. Minetti, telefonino sempre. Stavolta non risponde, mi ci gioco tutto quello che vuoi. Però è importante che... Bello, un momento molto radiofonico, molto... Nicol Minetti, igienista dentale, consigliere regionale di Lombardia. Vodafone, servizio di segreteria telefoniche. Lasciamo un messaggio. No, per carità, anzi... No, assolutamente, 800 24 00 24. Abbiamo mancato in realtà il momento lì, dovevamo cogliere l'attimo, invece di dire sì, bella, richiamiamo, no, perché insomma sul momento ci siamo buttati poco sulla perché presa. No, signore, un attimo solo, vogliamo chiedere se che dobbiamo fare. Però vabbè, che c'è? Fede al TG2, no, che c'è? Sentiamo, Fede al TG2, Fede al TG2, adesso lo mettiamo un attimo. Fede al l'ascoltatore ha ricordato il grande Monicelli. Fede al TG2. Meno rispetto di certa stampa che sta creando un assedio pericoloso, perché quando si vede una ragazza che non ha fatto nulla di male, solo perché perquisita per vari accertamenti, costretta a girare con una sorta di burca, cioè nascosta, il volto nascosto, un velo e gli occhiali. Questa vicenda sta ledendo la sua immagine? Direi assolutamente di no. Vorrei dire con poca presunzione che non c'è nessun giornalista che possa vantare il rigore come lo posso vantare io, umano e professionale. E questo era Emilio Fede. Vabbè, poi ognuno si fa l'idea. Si fa l'idea che si fa. Insomma, secondo lui non, questa vicenda non sta ledendo assolutamente la sua immagine. Con chi era? Un'antichina, sì. Che c'è il 4? Cosa c'è? Ah, il 4? C'è Claudio da Prato. Sì, Claudio, allora. Finiamo il discorso. Sì. Rispose ai suoi contestatori, come le dicevo, la prossima volta non vengo con una Mercedes sola, ma con due. Una per me, una per la mia borsa. Questa è la propaganda. Mi meraviglia che il cavaliere Berlusconi, che ha affermato urbi e torbi di essere un esperto di televisione, quindi di mondo mediatico, si presenti una fidanzata sola. È una delusione tremenda. È un dramma, direi, quasi esistenziale. Mi consenta di nuovo. Va bene, Claudio, la ringrazio. Gerardo da Ravenna, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Ma io ho una considerazione che parte dal fatto che ho 35 anni e penso che ci sia un rincoglionimento generale. In che senso, scusi? Ma nel senso proprio di rincoglionimento, quello che mi raccontava un mio caro professore, mi diceva: purtroppo più si va avanti con l'età, più ci si rincoglionisce, cioè si perde la cognizione, insomma, di ciò che può essere più o meno giusto. Beh, insomma, io spero che ci si renda conto, dopo l'ennesimo fatto al nostro Presidente del Consiglio, cioè questo fatto di rubi, eccetera, eccetera. Sì. Insomma, chi è che non è andato a escort, a puttane? Tutti quanti, no? Beh, no, insomma, tutti anche questo. Io mai, francamente. No, ma per carità, cioè inteso come... No, nulla di male, ma non sono mai andato, poi per carità, adesso tutti quanti. E qui, ma tutti quanti inteso che nel bene o nel male... Un attimo quanti... solo, un attimo solo, Gerardo. Ugliala. Vabbè, a questo punto... Insiste il direttorissimo, Ma magari chiediamo qualcosa sulla Tunisia, eventualmente, no? No, è che magari l'avranno avvertita a questo punto, capito? No, ma potremmo chiedergli delle cose sulla Tunisia, visto l'apertura del TG1, forse. Tu dici che potrebbe intendersi di cose tunisine, dici? Beh, perché no? Tutto sulla politica estera, chiediamo. telefonino di Nicole Minetti, consigliere regionale Lombardia. Vodafone, servizio di segreteria. Ci ha coglionato, non c'entra. Ci siamo fatti coglionare da Nicole Minetti. Ci siamo fatti fottere, come dicono. Ci siamo fatti coglionare da Nicole Minetti. E vabbè, che vuoi fare? È così, succede. Gerardo, allora, che voleva ecco, dire? Ecco, allora, fondamentalmente dico questo. Io penso sia morta la vergogna e a questo punto, cioè, la Daddario che viene a dire farò politica, io ne sono felice, perché vuol dire una cosa, vuol dire che tutti quanti dobbiamo fare politica, vuol dire che non dobbiamo più permettere a coloro che sono i politici di continuare a farla, quindi tutti quanti abbiamo una responsabilità precisa. Questa responsabilità va applicata, io da domani comincerò nel mio piccolo a dire al signor Berlusconi di dimettersi. Vabbè. Berlusconi si dimette. Non è il primo, Gerardo. Come la cosa clamorosa, da domani comincerò. Cioè, Gerardo, no, inteso, lei non è il primo, come, ho capito. Ma come, non posso più sopportare che io stia in un paese che mi dia l'esempio che appunto io posso permettermi tutto. Cioè, nel senso, in nome della libertà personale posso fare tutto. Lei prima diceva, purché non si guardi, credo che Berlusconi le farà una ragione, che lei da domani... No, Gerardo, cioè, perché da lei può iniziare, può iniziare a fare un appello, può fare quello che vuole, eccetera. Ma insomma, non è il primo e non sarà l'ultimo a chiedere dimissioni da Berlusconi. Le chiedono da 15 anni per i più disparati motivi, figuriamoci. Traffico. Siamo qui 20:47 800 24 00 24. Questa cosa della Minetti mi fa imbestialire. Ma ho sbagliato anch'io, mi manda i matti, figurati. Vabbè, poi magari non avrebbe risposto, Però comunque dai, aver comunque assaggiato, no, un po' di questo. Sì, periodo. Tutto live, tutto in diretta, tant'è che ci riprova prima della fine, ci riprovo prima della fine, nella Cacciari maniera sulla 7, Cacciari sulla 7 insieme a Stefano Folli, scuote la testa. Ma cosa state dicendo, il caso Ubi? Ma che ci importa, com'è che fa? Eccolo qui, ecco, Sentiamo Cacciari, via. Vai. Questo è più che un sospetto. No, questo qua è folle, la sensazione è folle. Di adesso tra poco interviene Cacciari. Telefonino della Minetti. È un veleno assoluto per il dibattito civile in questo paese. Professor Cacciari, lei è preoccupato per la delegittimazione delle istituzioni in questa vicenda? Tanto non risponde, Nicole Minetti. Si sta sfavinando tutto. Consigliere regionale Lombardia, eletta nel listino bloccato. Formigoni. Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Cacciari. Poi il punto davvero epocale della svolta Marchionne. Epocale. È un paese in cui non, il confronto sui programmi, il confronto sulle strategie ormai non esiste più. È un paese bloccato a discutere appunto della faccenda Ruby. E non è che se lo sono inventati i magistrati, penso, dei festini di Berlusconi a D'Arcole, poi batte la pesca quello che aveva fatto dentro, ma non è che se lo siano inventati, non è che sono venuti da me a indagare su qualche festino con qualche donzella, insomma, cioè, neanche credo da folli, non so, insomma, cioè, voglio dire, ma perché non li facciamo, semplicemente? Normale. Perché un Presidente del Consiglio non li può fare queste cose, ma è evidente che non le può fare, che non esiste al mondo un Presidente del Consiglio che le fa, ma di che parliamo? Dopodiché se ci sono dei reati indagherà la magistratura. Ma di che parliamo? Ma se è chiaro ci sono che un Presidente dei reati... del Consiglio non si può mettere in quelle condizioni, è talmente evidente, ma di che parliamo? Ma c'è bisogno di parlarne? Non si può mettere in quelle condizioni, punto, un Presidente del Consiglio che ragiona. Ma un Presidente ma è talmente del Consiglio... evidente. Potrà fare della sua vita privata ma neanche quello per che sogno, vuole. Ma neanche per sogno, ma neanche io posso fare della mia vita pruderia. Quello che voglio. Ma nessuno di noi può fare della sua vita quello che vuole. Perché la nostra vita è responsabile, se è una vita degna di essere chiamata vita. È responsabile, quindi risponde agli vita, altri. Qualunque sia, risponde agli altri. In massima misura un Presidente del Consiglio è responsabile 24 ore al giorno. Deve essere messo nelle condizioni di poter rispondere agli altri e lei sa benissimo che in nessun paese civile un Presidente del Consiglio che si comporta in quel modo sarebbe rimasto in carica per 5 minuti, lei lo sa benissimo, Perché ci raccontiamo le storie? Sì. Dopodiché non voglio più parlarne, non me ne frega niente di Berlusconi e delle festine ad Arcore. Perché so benissimo che Berlusconi, come qualsiasi capo politico, va a casa per motivi politici, perché c'è un'opposizione che è capace di fare l'opposizione. Lo so benissimo, quindi non parlerò mai più di Berlusconi. Anzi, ancora ben prima di quest'ultimo scandalo, un po' provocatoriamente, sottoscritto, scrisse da qualche parte, dicendo: facciamo una legge, un articolo, Berlusconi è innocente, a priori, qualunque cosa abbia fatto, cessiamo di indagarlo, fine, è innocente, e cominciamo a ragionare di politica e ad attaccarlo politicamente. Aspetti, professor Cagliari, si figuri se sono un giustizialista io, sono l'ultra garantista. Ma qui si dà per dimostrato quello che si dovrebbe aspettare, dire che è concepibile un comportamento del genere. Professor, io voglio dire, non si può, e qui si dà per dimostrato quello che si deve dimostrare. Uno ma va a cena e fa una cena per i fatti suoi, vediamo una se cena, uno deve stare ad indicare. Ma mai si ma sa non che sono decine di... le cene, ma, ci vogliamo... sono le intercettazioni. Ma le intercettazioni ci sono, io non le ho lette. Dei telefonini, che una io cena, non signora. Ho letto intercettazioni, quindi non ho capito altro. Ho letto solo pettegolezzi sulle intercettazioni e non ho letto le intercettazioni. Io preferirei che su queste cose ci fosse maggiore serietà, nel senso che nel momento anch'io. In cui sentiamo Cacciari che risponde. Cacciari? Cacciari? Ma quale? Ma io non voglio più parlare di queste cose, avete capito? No, le feste, Rubi, Rubacuori, Cruciani, non ne voglio parlare più. Politica è finito. Scusi, però Cacciari, ma non è ancora, non c'è nulla di dimostrato. Ma leggete, non avete letto niente. Io non dico Feuerbach, Hegel, Kant, Schopenhauer, le monadi, che non sono le monadi, come in Veneto dice monadi, è un'altra roba, un'altra cosa, dice monadi. No, questo l'ho capito, però mi scusi un attimo, Cacciari. Le intercettazioni. Le intercettazioni, d'accordo, eccetera, ma secondo lei Berlusconi può rimanere al suo posto? Cioè può fare. Ma è una domanda da fare sì o no? Questa io non è una domanda che si fanno tutti. Ma che domanda è? Ma non avete capito. Ma insomma, queste niente. Feste, Berlusconi le può fare queste cene, feste? Ma è ovvio che non le può fare, c'è un'etica, un ethos pubblico da rispettare, ma ti pare le feste, le cene, e bunga bunga, ma di cosa stiamo parlando? Ma vi rendete conto o no? No, io mi rendo conto. Allora che cosa domanda? Cioè, adesso manda la sigla ad andare a parte. No, per carità. Che cosa? Se fai parte, pensate, ma fa la domanda e poi dopo va bene il traffico, andare a parte. Ma cos'è andare a parte? Cosa sta dicendo? Leonardo, provincia di Foggia, buonasera. Chi è Leonardo? Che cos'è? Dica. Volevo dire al dottore Cacciari, sì, Parenzo. Confessi da Mago Telma che è geloso del bunga bunga di Berlusconi. Chi? Parenzo? Parenzo. No. Sono convinto, io vi ascolto tutte le sere ed è un piacere. No, scusi Leonardo, ma qui non... Che è geloso. No, Parenzo non è geloso. Se, di è geloso. La verità, Parenzo, no? Sei geloso del bunga bunga di Berlusconi? Ma non sono geloso, assolutamente, ma uno può coricarsi con 2, 3, 4, fino a 10, fino a quando il suo fisico glielo consente. Può aiutare. Su una cosa io non ero d'accordo. Su una cosa io non ero d'accordo con Cacciari. Dice: non può fare quello che vuole. Secondo me può fare anche quello che vuole. Però protetto in maniera ferrea, cioè non deve uscire uno spillo, non deve uscire una parola. Lei l'ha detto anche poco prima, quando viaggiava dovrebbe essere più riservato. Però io ho notato, dato che ho il piacere di ascoltarvi, che Parenzo è geloso di Berlusconi. Gli consiglio di andare dal Mago Telma e confessarsi. Confessati dal divino, confessati dal divino. Da ragazzino può aver magari, come dire, immaginato, no, queste cose, queste grandi feste, magari uno le ha anche fatte, no, alle festine, prima ballava con una, però... poi ballava con l'altra. Ma che c'entra questo con quello di cui stiamo parlando? Stiamo parlando nulla. Di ultima ascoltatrice, Michela da Monza, buonasera. Buonasera, dica. Buonasera Parenzo. Secondo me l'accusa dello sfruttamento della prostituzione è debole, o comunque la parola prostituzione implica di per sé il fatto che ci sia stato scambio di denaro contro atti sessuali. Noi sì, atti sessuali, atti sessuali nel caso del 600 articolo eccetera eccetera è inteso in senso molto largo, cioè anche adesso dico una parola, palpeggiamenti o cose di questo tipo con una minore sono puniti lo stesso, attenzione, non è l'atto sessuale, insomma la copula, insomma adesso tanto per intenderci, insomma il rapporto sessuale vero e proprio, inteso in maniera molto più larga. Ma ci sentiamo domani 18:30 anche con lei, mi ricordo del suo nome, del suo numero, lo teniamo. Dove saremo domani? Strasbourg, Francia. A domani 18:30, qui è ancora Cacciare Litiga, a domani. Viva la France, a domani. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.